primo che mi ha portato, sì, che si vedeva che era un maestro, che a tempo visivo ne ha fatto tutto, ha fatto un lavoro veloce e bello preciso. Da poi da questo manelato, pensavo a questa cosa, sto qui, ma io sono castellista, lo sono, lo intago sì, l'ho chiamato il predittore, ho detto scusa, ma tu cosa mi hai mandato i nomi? Io devo fare, devo dettare qualcosa di buono, non gli fa niente, quello non gli fa niente, poi gli ho chiesto di mettere anche i cosi di sanitari, no, praticamente abbiamo fatto cambiare anche tutto il portasciugamanto, quella roba, ho già che ci sei, mi metti anche questi. Se abbiamo buste, abbiamo buste, mi sono andato a lavorare, non intorno a casa di lavoro, ma come abbiamo messo qui, tutti i barri del Vai, vai, era che tutto posto, io, a me è voluto, ma sai, dai, lascia perdere, oi, oi, oi. C'erano i cipri, erano i comica, non era, una comica. Ah già, per carità di Dio, no. Guarda, sono inaccettabili certe cose, ma non si può lavorare così, va. Infatti, mica si fanno la fama, quelli si fanno la fama al contrario. Ah beh, infatti glielo ho detto per lui, che dice, qua sono mortificato, sai cosa è successo? Che lui, un attore che ha preso quando c'è io, probabilmente erano bravi, mi hanno fatto un bel lavoro. E io ero convinto che lavorassero sempre così, invece lui li cambia continuamente i muratori, non li manda via dopo che fate il lavoro, li paga e li manda via. Come ho detto, quando lavoro li cerca, se non sono impegnati o chi, se sono impegnati da un lavoro di pigliarsi, e gli si impida di capiteggiare. Io, ma per carità, io, un casino, la verità si dica, no, a parte io, vabbè, sono nel campo, e compagnia bella, c'è mio compare che è nel campo, io lui castellista, e guarda, io ho visto mio compare lavorare, ma non ce n'è per nessuno, no, non perché sia mio compare, perché sia mio compare, ma perché ho visto come lavora, è tutta un'altra minestra, ci sono persone improvvisate veramente, guarda già. Vabbè. E poi il maschio di dovuto pigliare, e lui dice, che dato c'è, tu ha voluto guadagnare, tipo se tu ero limpide, proprio pure. E ho capito, hai comprato tu il materiale, lui era c'è solo la manodopera, se si può dire la manodopera poi, vai, dille di andare a fare le cose, il pastore o il giardiniere, se ci riesce. E infatti adesso vorrei fare una cosa, appena ho un po' di soldi in quel bagno lo rifaccio tutto, le ritolgo tutto l'avvento e poi lo rimetto, faccio fare pavimenti e piastrelle e tutto quanto da qualcuno però che lo sa fare, lo rifaccio fare tutto quanto e poi lo faccio dove c'era quel separato, mi faccio un'arcata di modo che mi compro quella fretta tu barri tu su di vini. Ma se non c'è problemi posso venire io a mio compare e vedrai che il lavoro è fatto e per sempre. Sì, adesso sì, il problema ce l'ho adesso perché i soldini non ce li ho, ma già lo voglio fare quel banchetto, ma lo voglio fare come voglio io. Ma non gli pittura tu, il tuo gatto. Allora, a me è venuto la vetta, è venuto un CP che fa il muratore e mi aveva detto 700 euro con succio. E poi mi chiamavo, me ne salvatore, mi ha detto questo qua e l'ho fatto vedere, ma è 500, e vabbè, 200 euro sono risparmiati, se lavorano bene tutti e due così. Però mi ha detto questo amico CP, mi aveva detto, guarda, io te lo lascio tutto pitturato, fatto, ben finito nei minimi termini, tu non fai altro che entrare e basta, non devi farlo. E invece questi qui non me ne hanno pitturato, guarda, è stato un casino, tutto a cosa crudo proprio. Tanto è vero che io l'ho aggiustato un po' col gesso, ho messo un po' di gesso per tappare un po' queste ondature che c'erano dove avevano tagliato, perché come minimo loro dovevano mettere una trave cementata per farlo alla pari o no? Già, dai, gente incompetente, a quanto ho capito era gente incompetente, si erano presi i soldi, che quelli sono soldi rubati in casa mia, e non sono soldi lavorati onestamente, no, determinati lavori si devono fare con la testa e saper lavorare, sopra soprattutto saper lavorare, perché non puoi fare una cosa che non esiste né in cielo né in terra, capito? Quella del gigante fasciato, sarebbe stata la valigia. Ma avete parlato in due, chi è l'amico che ha parlato? Natali, non sono, stai uscendo male, sempre in FM. Io? Miglia. Sto uscendo benissimo lui. A te lo ricevo male, a te ti ricevo bene, a lui no. Io lo ricevo bene, Natali. Ah, un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Natalino, se mi ascolti cambio. Devo spostarmi, forse questo c'è le cose più stretto. Ah, ma è il tuo problema, non il mio, eh. No, ti ascolto l'altro, aspetta che attacco l'altro. Ma magari, Gianni, tu non mi ascolti? Benissimo. Boh, allora è il problema di Natalino, no? O no? Spostato ti sento, prima ti sentivo sempre bene, adesso ti sento spostato, te, spostato di 5 kg. Non lo so, vabbè, aspetta che attacco l'altro apparato, vediamo un po', va. Prova a controllare il chilo, se ne spostati fal kebab e arrivi bene, radio. No, io, guarda, non ho toccato niente già, è strano, Aspetta un attimo che giro con l'altro apparato, là, e vediamo un po' se ti sento, perché questo è stretto nel pezzo. Dico basso, così lo sento perfetto, proprio Santiago 95, la 95, è la radio chiarissima. Che vuol dire il tuo è più largo di banda, questo è più stretto, aspetta un attimo, che tu mi controlla, no? Non sta chiaria, parola. Io dico quello che sei, se non poco, non lo so, so. Va bene, no, magari c'è qualche cosa da Natalino, dai. Adesso controlla e si addirisce anche per il dono, dai. Perché mi stavo uscendo un po' nasino, eh? Buongiorno Alessio. Diciamo che non arrivava come pompando. Bene, ma cosa pompi a Sassa di capita, tu? Aspetta, non lo so. Ecco. Ecco, di pompi io, Dai, non mi pompi tu, che non ce la fai. Devi solo buffare tu, buffa la braccia. Ormai buffamelo, ci spuglio. Sì, sai cosa c'hai? Ci spuglio quello che sta ora, pieno di zinzola. Sì, è più stretto il presidente di banda. E infatti mi risultava spostato. Evidentemente, adesso sto parlando con questo qua, e lo sento bene a qualche detto, ma... questo deve essere che più aperto qua, ma quello là è più stretto e subito te ne accorgi e fuori da lì, ma adesso mi ricupi, adesso ti ascolto bene, però questo è più largo, l'altro è più stretto, c'è le cosce strette, l'altro è logico che ti ascolto male, stai riuscendo tutto tipo come se fossi in FM, per ascoltarti bene mi dovevo ascoltare io in ricezione. Come mai adesso non si sente bene? Perché invece ha messo quel cesso di microfono e lo cucina male. Boh, che strana. Vabbè. Non lo so. Forse non si può stare a quello. Vabbè, perché l'altra volta che l'ho presentato io ci ho parlato con Falchetto ed era il presidente e si fa benissimo. Ma vuol dire stavo usando un altro apparato, stavo usando, oppure c'era un microfono diverso, l'ha messo. Io adesso l'ho ascoltato male, stamattina l'ho ascoltato bene, per esempio, anche dalla macchina. E invece adesso ho acceso qua, a te ti sento bene e a lui male. Come si spiega? Ma anche a te non vuoi sentire male. Vuol dire che hai spostato qualcosa a lui. Oh, babbo. secondo lui si è detto a Falchetta. Con che apparecchio lo ascolti a uno, la pittola. E gai su conto. Con i baracchini non te ne accorgi, no? Con i baracchini normali. Manco per le scarpole te ne accorgi. Con quei baracchini di 40 canali, vogliamo lavorarti lì. Uno può si è pucciato buco di zigghio e ritenevo a te. Ma va, adesso che scende, Natale. Mo, stavolta con su e con chi su. Mi dico che ti intendivo tutto bu bu bu bu bu. È mio il problema, Natale, o il tuo? E il tuo, se hai appena appena spostato, e giustamente quello è più stretto, ti manda e se ne accorge, no? Che si è spostato, se no avrei dovuto sentire anche male a Gianni, invece Gianni è giusto, mi sento bene sia con questo che con quello, però questo deve essere, io ho le cose più aperte, diciamo così, invece io è più finto, ma ragazzi. Agatta, va bene meno, va, fate girare, va, va, e adesso non riprende, ha fatto un po' e se n'è andata. Dopo rientro subito. Dopo ti pompo, gatto, così impari. E adesso sto facendo il poco in terra, perché con tutte quelle tricciole di staglio che ho lasciato in terra, facendo quegli apparecchi, sembra la casa del mondo del faglio, pare. Non pare la camera, no? Ma la camera che cosa, pare? Dopo, fammi un controllo radio a me. Ciao Baracchinetto, ti ascolta bene, ti sto dicendo. Cara Pittina, il difetto mio è troppo stretto l'apparecchio quello lì, di banda, e se uno è appena appena fuori lo ascolti male. Parola. Beh, adesso ho piazzato l'Alan 87, vedi un po' se ripiazza il tuo, quello che avevi prima, vedere se mi copi meglio. Vuol dire, hai cambiato apparecchio per quello che ti ho ascoltato così, perché stamattina ti ascoltavo bene. Ora vediamo, va. Metto l'altro. Aspetta, va, che io sposto l'antenna e vediamolo con l'altro. Raga, vi lascio che vorrà mangiare, dai, dai, sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, già. Ehi, ehi. Sì, già, ho già mangiato, eh. Beh, beh. Una pulizia straordinaria, io. Allora, divi signori, andrà bene mela, buon pranzo allora, dai. Attento. Via. Guarda adesso. Avanti a cogliù, avanti a seduta. Sto usando l'altro apparato, va. Quello lì appena appena spostato, evidentemente. L'ha spostato un paio di chilo e fa quel difetto lì. Invece questo va bene, ti ascolto bene anche con questo. Appena appena spostato quell'altro, ci vorrebbe un frequentimetro per poter lottare in trasmissione, capito? Ah, è gappa gappa. Gappa di Rogero, gappa gappa gappa. Tu adesso lo cerco a vedere se lo trovo un frequentimetro, così mi riporto io l'apparecchio. Non c'è bisogno di rompermi i capri ogni volta. Eia, eia, Natali. No, già ci vuole frequentimetro, dai. Almeno ti controlli tu la stazione e compagnia bella. Perché io qua sono centrato, caffè, giustamente ti ascolto bene adesso. E quell'apparecchio tuo che hai, quell'altro, che è spostato a te. Ma è normale, mi capito? Se uno ti ascolta con un apparecchio simile a quell'altro che stavi usando, non se ne accorge, no? Io me ne sono accorto perché ti stavo ascoltando con questo. Magari entra uno che ha l'apparecchio stretto come questo e ti ascolta ugualmente male, capito? O quell'altro. No, non è niente. Quelli sono tutti spostati, quegli apparecchi omologati così. Ma si può regolare così, Ma ci vuole il frequentimetro, se non hai il frequentimetro non lo puoi regolare in trasmissione, capito? Bisogna anche saperlo fare, non è così. Ho capito. Sì, vabbè. Adesso questo lo lasciamo così, tanto quel mobile sono, lo metto in vettura, dai. Infatti, se non ti ascoltano gli apparecchi normali, già come quello lì, non se ne accorge, no? Che sei appena appena fuori. Ti ascolta bene, va. Perché se era fatto il mio, il difetto, ascoltavo anche a Gianni male, a Pittola e a Pomponio. Bene, in effetti è vero, allora sa, ma strano, perché lui mi sentiva bene, Pomponio, vabbè, Pomponio, non me l'ha fatto il controvino comunque, ma, vabbè, dai, vieni a Napoli, lasciamo tutte cose quest'anno, vai. Che vuol dire quello che stava usando Gianni, è più largo di banda, e non te ne accorgi. Quello bisogna vedere con Pugno che apparecchio ti stava ascoltando, se ti ascolta con uno come questo si accorge anche il buco, se invece è un apparecchio normale non se ne accorge neanche con Pugno. Io sono col sotto un eccomi, al pantalone che glielo sai, no vado stretta. E invece questo è stretto, ma la sorte, te l'immagini Antonio? Me ne sono subito accorto quando ho usato il mobico. È ascoltato appena appena quello di Falchetto. Infatti ho dovuto girare per ascoltarlo meglio. E se no vi ha guardato Marisi, a te che a Coso, che a Gianni, invece ti ascolto bene. Adesso sono tornato col presidente. È stretto puzzinoso, te l'immagini. C'è la chino di rinco qua, l'ho sistemato Marco Mari. Adesso già va, sembra che stiamo bene. Poi trova il presidente anche io, vediamo se lo ascolto come lo ascolti tu. Sì, quando aspetta cosa c'è, cioè, sì, mi trovo un gusto anch'io. Sicuramente se non l'hanno toccato come il mio, te ne accorgi sì. Però lui adesso sta usando un altro apparecchio mio, o Antone. Lui per ascoltarlo devi fargli mettere quello che c'aveva prima. Quello là, con quello là è spostato, invece con questo lo sento bene. Cosa faccio? Cambio apparato? Adesso no, ancora quando piazza il presidente già te lo dice lui di cambiare apparato. Devo solo staccare l'antenna e mettere l'antenna, ma tutto qua. E vabbè, va, è trasformata parecchio da ascoltare, ma vabbè ti ascolto bene anche io, ma questo stai usando adesso. Vai, amici. Cava di Rocci, Cava e Rocci, no? Oh la la la la! Che preghiere! Vabbè, no, è stato riuscito ancora, no? Uia! E anche che patrocinista, la gente, ya, Natali! E cosa vuoi? È domenica, la gente mangia tardi. Se Gianni ancora non aveva mangiato, se ne è andato a mangiare adesso. Sì, Cava Rocci. Cava di Rocci, no? Devo fare la stretta, attaccato DC, Matari. Lui non si è attaccato ancora, no? Sì, non lo so neanche se mi attaccava. Anche per di pulizia mi sa camera di fare multinazza. Cava, cava, mi andrà bene, dai, ci vuole un po' di ordine, tutto in ordine, niente a posto. Cava, cava. E te dico di mo fa che... Mi ricordo niente, non ci puoi fare nulla. Ma, roba buona mangiata la tarifa. Fatta asciutta, poi mi hanno fatto della carne, poi ti fatta fine fritte e ti ha campato. E auguria, via. Auguria. Ci andrà bene vera. Infatti io ho già mangiato, capito là? Io come sono salito mi sono messo a preparare e via. Invece mangiano allora di signori, io si metto il nostro signore e lui ha mangiato, farò sicuro. Sei un credo vecchio Natali, ma anche io sono abituato a mangiare a una certa ora, la verità si dice, ma poi io mangio quando faccio fame, noi so che via si dà l'ora, oh, una fatta sempre. E si fa a me, ah io pure vado giù fame e chi dà la canzone, devo mangiare e basta. E non c'è Cristo, Ne ho un grido io. Stavo mangiando tardi solo quando stavo lavorando. Perché giustamente tornavo tardi e mangiavo tardi, ma va che c'ho un libro, allora chi mi viene fame attacco subito lo burrito e via. Ah no, e non ce n'è per nessuno, ma sai, vero è? E segreto, come mi viene fame quella la canzone. Infatti mi dietti, mi dici, e cosa gli ho mangiato, allora di ritirare, ma ne va più fame. Oh, e mi sono abituato così, poi la mamma da chiudura doveva mangiare, una è da doveva sempre, ma niente, ho preso la, e chi sono il discorso. E allora è per quello che mi sono abituato a mangiare presto. Perché era orario, no? Alla una, alle otto doveva mangiare, alle otto del mattino. E quindi giustamente anche io facevo quegli orari lì. Ma sai no? Sono da Berlino, come sei scelto? Uno, due, tre, quattro. L'orario è un po' così. Forse è perché c'è il microfono normale. Sì, non male il microfono, capito? Non è che adesso adesso la battuta non è sufficiente, non va bene. Altro che diminuisco, altro che diminuisco. 10 watt mettili, non di più, perché sennò io ci saturo, anche il mio fa così. Infatti io lo so, ma io lascio regolabile come vuole lui. Ok, altro che diminuisco. Ora, prova. Picchi positivi. Cava, anche il mio fa picchi positivi così. Ora, vedi. Sì. Andrà bene mela, anche quel rosmettino che ho comprato mi va bene, Ali. Meglio così, a te faccio una falchetta, non è come la so, prova a falchetta, come ti sento io. Ma io ho l'ala 87 adesso, io dovrei adesso staccare l'antenna a vedere quello che stavo utilizzando prima. Mi ha stonato. Aspetta un attimo. Non via, stai. Sei spostato, te ne accorgi, sei stretto come questo, quello lì, tranquillo che te ne accorgi subito, devi spostare tutto verso destra, appena è spostatomi qualche chilo, però te ne accorgi mala sorte, perché questo è stretto e subito ti inabiti. No, io sto usando ancora l'ala, quando è pronto me lo dice, sta con l'antenna e me lo metto all'altro apparato, cambio. Sì, vai. Che così ti ascoltiamo, vedi? Ah, ma adesso allora cambia adesso l'antenna? Sì, anche ha messo il limbo. Cava, cambio l'antenna un attimo. Unito, con poco, attento con poco. Beh, cosa dice questo, cosa dice? Mamma mia, parla un attimo che ti sento. 1, 2, 3, 4, 5, sì, prova. E adesso già ti sento. Passa la radio. Ma la radio va bene. Adesso vedi, con questo io ti sento più basso, mentre con l'altro, con l'ala 87, ti sento più forte. E perché quello è un lago di Smith, già lo conosco quell'apparecchio, ce l'avevo anch'io. Magaba, guarda se c'è un buio, così vi fa un controllo. Un poco, mi sì. Ma sarà da un buco, cioè. Mi ha dato brinca. Attento, ben poco. Anco di pompia io, di pompia. Guarda, questi cazzo. È una cosa che non si crede. Almeno me. Brava, ho fatto sembrare l'antenna. Attore. Adesso gli faccio uno spinto, aspetta, ma non lo vedere. Che facciamo squinta? Cava, buon pomeriggio. Andiamo, io vorrei che controllo un po'. Ancora un pompiere io, buon pomeriggio, che? E gli arrabbiamo una di un buon pomeriggio, che? Sì, io lo grido, io. Ah, sì, te lo so così, senti. Ma non dico 4, mi dico. Non me la ma secondo me è notare, io sono andato meglio in macchina. Sì, è per la macchina, dice, dai. È un omologato, sono quasi tutti spostati quegli apparecchi. Mi faccio un telefono, un attimo, così. Perché lui in riparazione c'ha un apparecchio come questo, Ciammi. Capito, là? Allora, Blitta. Ecco qua. Apriamo. Ciao. Potrebbe essere 23, 227-212.0 627-215.05-010, capito? Basta, vedi, ci vai. Ah, siamo di roccia, ma non è difetto dell'apparato, no? No, no, è un tipo dell'apparecchio così, non lo faccio in causa perché nel FM 507 c'è ancora peggio. Sono gli apparecchi della ricca che sono tutti così, non ti preoccupare per quello. Ma comunque in macchina la vorrei andare meglio, no? Macchina sì, per esempio io posso fare che ti sento bene perché c'è la banda larga. Invece quando lo conduco la banda stretta e anche le 20 la banda stretta, le 22.50 lo stesso, invece scrivo la banda larga, in concentrare come voi. Ciao, ciao, c'è stato uno che te ha sovramodulato, a parte che ha sovramodulato? No, nessuno, dopo rimetto l'anno perché non mi piace la modulazione di questo apparato, a dove? E va bene, ma tu non mi dici. Chi è che parla sopra di te? Non ho capito io, boh. Sono geloso. Boh, non so io, aspetta che rimetto l'altro, vai. Passo da... Passi, ma gli altri sono la tua. Senz'altro, aspetta che sto cambiando antenna. Via. Perché siete così bassi ad oggi? Sentito, Antonio. Ma sei così basso. Magari passo di modulazione. Il segnale va un po' così. E lui che è più basso. Lui era sempre lo stesso, e sei tu che sei basso. Sei al 2,65, copia. Da Ferrucchio. Non lo so il perché, eppure Falchetto mi copia bene. C'è che te l'ha fatto anche l'entrata. Non ti servirò. Sei al suo punto antenna. Ma c'è il barracchino della mutua. Passaggio non sei uscito, eh? Passaggio vinto, vedo un po', è qua, ti faccio la scala, Antonio, dalla modulazione, che vado alla casa di Maria a modulare, quella è già mi sente lì. Diversi chilometri di lontananza, a meno che abbia un aiuto. Cosa vuoi con 3 watt? Scarsi pure. Oh, 10 watt ti dà il camion e non si sposta di una virgola. Cosa vuoi da un'antenna che non ne si valuta, dai, non ha fatto male a prendere qua lì. Ma non c'è sentato, mi si pigliava da un'area, pigliava un'altra migliore. Prendeva la pelle C1000, adesso la vado io a provare, a vedere se gli piace, poi ce la prende, e ha preso anche un'altra decisione, così la pelle C1000 la mette in camion e poi mette la stampa e mette l'altra valletta che compra, perché la valletta di quella lì dell'ora è uguale alla pelle C1000. La squadra deve portare in macchina, mentre aspetta anche in macchina adesso. Fissa. No, è dove la mette? Al posto dell'antenna del coso, della radio? Al posto dell'antenna della radio. La piede C1000? La alfa di rometro. La pesa per una ragione. Ah, c'è io qua, non pesa niente. Faccio quelle tipo un ricchio ed è un bel grosso, è come la 2001. Ma la pelle di mia c'ho un ricchio, c'ho un ricchio, c'ho un ricchio, ma vent'anni non pesa, no, è tutto un grosso discorso, vai. E non è meglio fargli mettere una come ce l'abbiamo noi, come ce l'hai sulla punta, come ce l'ho per la sua panda io, che quella flette un e non si tronca quando passa dove tocca, e quello lì secondo me è migliore, l'altro è più rigida e faccia la ciampotto. Con l'attacco della pelle civile è uguale, la base. E al livello della 2001 quasi. Ho capito, lo spezzone che c'è davanti l'ha aggiunto. cantore non dimmi raga. Questo cantore l'ha attaccato adesso, ha detto che c'ha due spezzoni attaccati, li ha collegati probabilmente perché non arrivava dove voleva lui, però è sbagliato quello. Il capo vuole mettere tutto in intero. Sì, ma non si è lasciato per fare il microfono. Cambiarlo, questo sia quello amplificato. Come si quello amplificato? Se cambia la radio. No, no, questo qui è già amplificato. Se vuoi vi metto quello non amplificato. Allora, provo a mettere quello non amplificato, visto? Se questo è amplificato e a me mi pare normale. Provo a mettere il normale, a vedere. Per qua mi ha detto che se c'è tutti e due la spia dell'Africa, quella del Tix. Come mi chiedi a me? Io sono migliorato. Questo è più squillante, però ce l'ha sempre. Non so che fare, sono andata a Marea, chiama chiara. Dov'è? Però è più chiara, ma il lineare è sempre attaccato. Tu sì, l'ho riattaccato, perché sennò mi si accendono la spia. Ma provo a attaccare l'antenna diretta all'apparato, vedere. Non posso, ma aspetta un attimino che provo. Lo sa che la lineare, lo sa che diretto, vediamo, come va. Ma faccio tutto un braccio che mi fa male, ohia. Certo, tutto un braccio sinistro mi fa male. Perché ti fa male il braccio sinistro? Perché mi sta arrugginendo. Diretto? Arrugginendo mi sto. Sì, faccio un po' di RC48. Vai, fai sentire. Come stai RG58? E hanno un po' di RG58, se puoi prestare. Avanti, dai, come ti sento adesso? CRCO si chiama. Un po' di olio di gomito ci vuole. E sia strano. Vai, l'amico. Sono sempre qua. Ho fatto come avete detto voi, come vi chiede? Non lo sento, portarlo a fondo scala e poi metti il rose e ti segna le stazionali. no fuori dalle sedie. Cos'è che c'è un rumore? Un fruscio, E l'hai sentito? No, perché stanno fischiando quando parli e non riesco a capire cosa dici. Cosa piacere, come lo devo mettere? La L, la L. Tu stai leggendo quello che c'è scritto sul rosmetro? No, no, sulla parete. Allora, l'apparecchio ha dei filtri, quelli ANM sono dei filtri anti-rumore. Con quei filtri lì senti appena appena più basso la persona, però togli tutti i rumori sottofondo, in parte, da non tutti. Cosa ho provato? Perché hanno indirato un gattone. Io. C'ho un paio di leva. Portantista c'è? Faccio compreso. Ho detto se c'è il portantista. Chi? Io? Capo. Devo tenere la portante fissa. No, se c'è quel tipo che sta mettendo portante. No, io non sto mettendo portante a nessuno. Io ho capito solo una cosa. No, non sto mettendo la portante a nessuno, qualche. Negativo, hai capito male. Se c'è il portantista, quello che vi mette la portante sempre, capito? Ah, capa, no, non è quello, no. È una sabassona, Ha già compreso qua cosa, un po' di voce non la intende, adosso. Buonasera Pierpaolo e buonasera circolare a tutta la ruota, cambio. Buonasera Giuseppe, avete sentito? Avanti, iniziate. Capa, saluto la ricordata, non ho capito chi era. Comunque, buonasera e cordialità a parte di più, avanti. Buonasera Giuseppe. Buonasera a te, Pacchetto, e ben risentito, cambio. Positivo. Gianni da Perù, hai capito chi era? Ehi, ma ti dico la verità, sono andato a cercare chi stava fischiando e quindi come ho girato non ho sentito chi era, capito? Ciao Giuseppe, ho sentito con realtà, dai. Grazie altrettanto a te Gianni, e avanti chi stava parlando. Capa, ciao Giuseppe. Tu chi sei K2? Oh, sono Antonio, so che avrei qualche difficoltà a copiarmi. Ciao Antonio, e ben sentito anche a te, tutto bene? Ma tutto bene. E perché difficoltà a copiarti, Antonio? Che è successo? Perché cambia parecchio, e questo qua mi sta già su. E dimmi lì. Facendo questo figlio, Giuseppe. Negativo Gianni, sta appena appena di rumore di sottofondo, ma nessun fischio per il momento. Cavolo, no, perché c'è qualcuno di spalla, sta fischiando e non si capisce. Sono 25, ma non parlo a posto, dai. Io ti ho visto tutto. Ma non l'ho fatto apposta, No, è un amico. Chi è rimasto? C'è Falchetto, c'è Giuseppe, Falchetto mi prendi, dai, ripetela più tutta quanta, poi c'era anche Pompone. Ehi, vuole sapere chi era il 25, ma sempre una persona famosa, già. Falchetto, non so cose che si parla nel radio, anzi parla in verticale. No, sto dicendo, ma più o meno si può capire. Vagava, il re della frequenza. Lasciare dare. Anda bene veda, Giuseppe riprendi. Sì, grazie Falchetto, riprendo io, dai. Niente, non ho capito niente. Organizzare per fargli dare una calmata, perché non si può per colpa di una persona far andare male tutta la ruota. Io sono qua, se qualcuno ha qualcosa da dire, sono sul 27, non sono sul 21. Se qualcuno ha qualcosa lì, è fatta di la faccia. Quella persona famosa. Sono Claudio Sparviero, Falchetto. No, stiamo sguanderando un po', capito? Tutto qua il discorso, Claudio. Perché mi risparmiano con i bip con tutte le cose, e quindi non so cosa dire. Ognuno è libero a fare ciò che vuole con la propria radio, queste sono parole che ho già sentito, perciò io sono sul 27, sto facendo le prove, c'è un'altra radio accesa e ho sentito quella persona famosa, e quella persona famosa non si è mai nascosta dietro il microfono, sempre Claudio Sparviero. Sono sul 27 e ho tutto il diritto di fare quello che mi pare mi piace, punto. Ciao Falchetto. Non è che c'erano dubbi, però capo, se per fare le prove ti puoi mettere anche lontano dagli altri canali, non farlo apposta per rompere le scatole agli altri. Appena ti rispondo perché non ho parole da risponderti. Comunque io mi metto da venire pare mi piace, tu sei sul 21 o mi metto sul 22, io lo trasmetto dal canale 1 al canale 40, quindi non ho nessun problema, se sono 27 sono 6 canali oltre. Comprati la radio che non prende spazio, io manco sapevo che ci riguarda, se non avevo acceso l'altra radio, manco ti sentivo, perciò punto e basta, ciao. Ti andrà bene. Lo dirò io. Ma sono già fottente. Io sono volare, dai. Io vabbè, vuol dire che farò lo stesso, quando parlavo mi metto a fianco il suo, voglio vedere se mi sento. Ciao, riprendi Giappa. Giuseppe, allora, hai deciso per la PL10.000? Sì, Giuseppe, dai, organizziamoci in qualche maniera che la voglio provare. Poi decidi tu, Giuseppe, per me va bene quello che decidi tu. Io sono qui perché, ripeto, non mi nascondo dietro il microfono per dire che sto iniziando, e delle strapotenze degli altri proprio non me ne può fregare di meno, perché persona educata mi reputo e persona educata anche fuori dal microfono rimango. E niente, le cordialità le lasciamo sia davanti al microfono che fuori, perché se si va avanti di questo passo qui niente, si va muro contro muro e basta. Poi a me, ripeto, delle strapotenze di uno e dell'altro non me ne può fregare di meno. Se io sono qui seduto davanti a un microfono e per passare un'ora, mezz'ora, quello che cavolo mi pare di rimanere davanti al microfono, però passarlo nel migliore dei modi, senza sentire né strapotenze e né niente. Ecco perché ti dico a te per Paolo, sempre a disposizione, non c'è nessun problema, cambio. Ricordami che me lo segno quel nome lì, perché sicuramente, guarda, al 101% è quella che prendo, è quella che uso la barra pesante e la passo nella macchina, come siamo arrivati d'accordo stamattina, perché niente, va bene così, so che è una buona antenna, me ne avete parlato bene e ho la possibilità di provarla domani. Pierpaolo, sempre un amico, Non ci sono problemi. Va bene, ci sentiamo quindi più tardi, adesso parliamo di altro, ok? Buon artigiane, dai. Non ne ho voglia, dai, rimango la scosta. Non è Luglia, è presto, faccio vedere io a Luglia. Gianni, stanno per arrivare le brasiliane, fatela venire la Luglia, bravo. Vabbè, ci vorrebbe adesso. Buon gustaglio, oserei dire. Bella. che ne abbia molta, sinceramente, non ho molta voglia, dai, lascio parlare a voi per un po'. Dai, avanti, Falchetto, niente di strano che noi domattina ci sentiamo presto, dai, riprendi tu, Falchetto, per due minuti. Noi già ce la riascoltiamo domani mattina, tranquilli, sereni e pacifici. Ma che, belli freschi freschi appena alzati, guarda, non abbiamo manco voglia di poter bisticciare quando hai ancora la faccia del sonno, cambio, Falchetto. Ma poi perché bisticciare, mannaggia, io dico una cosa, si entra per scambiare due chiacchiere e tutto qua, no? Non vedo motivo che uno debba bisticciare per niente, dai. Ma basta qua, lasciamo perdere là. Positivo, ma che le parole che hai detto tu sono per me Vangelo. Come ho detto anch'io poco fa, si entra, si discute, ci si confronta ed è anche bello perché, sai, un'idea la dai tu, una la do io, ci si confronta sempre in maniera civile ed educata e va bene così, ci si passa l'oretta in tutta tranquillità e guarda, quando sei in compagnia ad amici si sta troppo bene. Ehi, cavarocci, ma è così che funziona, dai, mannaggia, no? Io sono fatto così, a me piace entrare in radio, scambiare due chiacchiere, con tutti ovviamente, perché non c'ho nulla con nessuno, poi dipende sempre dalla persona, capito, Giuseppe, tutto qua. Che perfettamente d'accordo con te e anche se posso dire magari che una persona può avere dei momenti diciamo nel corso della giornata, tutti abbiamo degli alti e bassi, però niente, bastano due parole per chiarire tutto, perché è brutto anche, sai, quando ci si confronta così con l'arroganza, non va bene, perché in fondo una volta che ci riuniamo e facciamo la ruota, bene o male siamo tutti colleghi qui dentro, dai. La parte positivo è così, io lo penso, ridere come la pensi tu, però non tutti siamo uguali, ma comunque anda bene lo stesso, dai, non mi metto problemi io, dai. K Falchetto, K, avanti Pierpaolo, grazie. L'apparato, il PL aveva scaldato, sì, nella barra pesante, Gianni. Allora, sempre Pierpaolo. Il PL suo, l'apparato era freddo. No, l'apparato aveva lavorato un po', però non era in condizioni scandalose, dai. Avanti Tarzan. Poteva essere, Pierpa, come l'hai trovato tu ieri sera, sì, caldo nei bordi, però il PL non l'ho mai trovato così caldo. Ma non è che passa l'aria calda anche qui attorno? È negativo, Pierpaolo. Ci sono le bocchette di sopra, che spunta dell'aria calda, no? No, negativo, lì siamo sotto cabina. No, aria calda niente, Pierpa. Ma ecco, no, perché sembra strano, perché l'apparato dunque nei bordi. È un fattore strano che non lo so spiegare, perché con quelle stazionarie non è che no, avrebbe dovuto installare il PL. Ma dimmi una cosa per Paolo, tu che sei più ferrato di me, io dovendo tenere per un'ora l'apparato acceso lì dentro, secondo te il PL deve scaldare? Non deve scaldare, assolutamente. Ecco, allora io ti posso confermare, Pierpaolo, e te lo confermo con molta tranquillità e con molta sincerità, e ti dico che l'apparato era acceso un'oretta buona, dai, e quando sono rientrato a Sassari, quando l'ho staccato per portarlo qui su a casa, il PL era molto caldo, e non vorrei magari che fosse, come tu hai potuto constatare di persona, che il difetto potrebbe essere anche che il PL è stato fatto male, non sbaglio, però. Il PL non è fatto questo, non è fatto al 100% bene, però soldare, no? Infatti è quello io che non riesco a capire, credimi, perché proprio quando sono andato a svitare la ghiera dal baracchino era bello caldo, infatti l'ho lasciato fuori da dove metto il baracchino per raffreddare. Una sistematina se ci riesco, dai. Sta arrivando bene qua Giuseppe, Santiago 9 Radio 5 qua. Come sto arrivando io, Pierpa? Sto arrivando 9:15 Radio Bella. Ciao Natali, ma quanto fare sul camion che fa questa cosa qua? Non a casa, vero Giuseppe? È positivo, positivo, solo sulla barra pesante quel piccolo difetto. Buonasera Natalino, anche a te. E anche qui in postazione arrivi 9:15 e radio super chiara a cambio. Santa, l'ho messo male a catena satura, è proprio di lusso adesso. Cosa ti volevo dire? Se questo datore ce l'ho io, mi. C'è anche quella a gas, basta caricarla con la bomboletta e lo puoi fare mi sul camion, Giuseppe. È vero Natali, perché io domani devo scendere a Cagliari, mannaggia, e con quelle piede lì ho l'impressione che stia perdendo tanto, e dico bene Pierpa. Lo sai perché Natali, invece di mettere la causa semplicemente abitata attorno al collo, ho fatto uscire la causa dai buchi e ha cercato la girata la causa così e ha cercato di mettere della saldatura. Ho capito. Perché, ma cosa c'ha le 20:58 lì? Sì, in caso sì. Io non si può andare adesso a farlo. Questo gioco qua. Prendiamo un PL nuovo e lo facciamo come si deve. La stazionaria non è che ne ha messe, sul canale 40 gli salivano 1 e 2, se no erano 1 e 1, dai. E ho capito, ho capito. Perché basta comprare una bomboletta di gas, io ho quel, come si chiama, quel saldatore a gas. Oh Natali, io qui a casa ho la prolunga e lì a fianco alla barra pesante ho proprio la presa e per me non ci sono problemi, però non vorrei recare disturbo, dai, visto che oggi è anche domenica ed è domenica per tutti. No, c'è problema, amici, noi il salvatore con la punta a fine qua, se c'è una prolunga lo facciamo, problemi ci sono. No, Natali. sta lì, per l'amor di Dio, per me magari se sarei stato sfacciato avrei detto già da subito su che andiamo. Io sto a voi perché per adesso vi dico, visto che ci sono qui da due giorni, potete essere come dei padri per me, quindi chi meglio di voi mi può indirizzare dandomi un buon consiglio, oppure facendomi vedere come va fatta una buona saldatura, oppure dicendomi che una saldatura è fatta male, mi capisci? Se c'è la prolunga stiamo andando e lo stiamo facendo, già tanto non lo porto io, con la punta a fine. Va benissimo Natali, tu Pierpa hai da fare, tu Gianni, dai così ci prendiamo un caffè. Gianni ci sei. Ma io se ne al limite vogliamo farlo, io posso andartene mio. Facciamo il tutto. Capisco che cosa dobbiamo fare Natali, perché c'è qualcuno che mi sta rompendo qua. No, se vuoi uscire, se no vado da solo, da Giuseppe. Tanto c'è una solo che abito, che me l'hai fatto vedere la situazione, dove abita lì e quindi non c'è problema, andiamo io e lui solo, se lo facciamo, problemi non ce n'è. Passa! Preparati che sto passando, tanto ci sentiamo dalla macchina, ci faccio anche in macchina il baracchino. Pierpa, tu cosa fai? Dai che ci prendiamo un caffè. Dimmi. Pierpa, dai, vieni anche tu, così ci prendiamo un caffè, così siamo io, tu, Antonio, Natalino e Gianni. Esatto, vabbè, ci incontriamo lì allora. Oh, Pierpa, il suo stabilimento? Sì, il suo stabilimento, allora. Perfetto, ascolta, porto anche il baracchino, Pierpa. Ok, K, sto chiudendo, niente, ci risentiamo dopo giù, dai, salutoni a tutti e a presto, dai, ci sentiamo giù fra una mezz'oretta, se per voi va bene. Presa da Centisigari sono tutte e tre da 24. Tutte e tre da 24? Buono, ho detto che perché adesso c'è una graduazione da Centisigari. Purtroppo è così, perché anch'io credevo di trovarne una da 12, però non c'è, poi lo vediamo assieme, dai, perché c'è anche scritto 24 e non mi ricordo quanti ampere. Ah, vabbè, no, se no io c'avevo alimentazione da 12 mosse a 12. Pierpa, vai tranquillo, io adesso mi sto mettendo dentro una busta, la prolunga, quella che si arrotola. Tanto lì, hai visto dove c'è la barra pesante? Sì, capo. Ecco, lì a 4 metri c'è una presa di corrente, quindi siamo vicinissimi. Bene, capo, va bene così. Porto anche una filetta in maniera che possiamo vedere quello che stiamo facendo, dai. E niente, dai, vi ringrazio tutti quanti e niente, dai, ci sentiamo giù così ci facciamo un bel caffè tutti quanti, se siete d'accordo. Va bene, papà, ok. Va bene Giuseppe, dai, tutte le migliori alle prossime. Ciao Falchè, ci sentiamo presto e porta la nostra ruota, dai, via. Eia, anda bene meno, vai. Ciucucciu. Ai. Tutto buono. Allora, Bobo, sempre facendo, Semo? Papà, sempre sfasciando sto. Anda bene meno. Va bene, va bene. E tu sfasciando stai? No, era nascosto fino adesso. E niente, adesso riprendo tutta la vettura, riprenderemo anche noi a modulare, dai. No, è adesso che vettura. No, negativo. Come vai? Non c'è la magnetica. Non lo sto usando vettura adesso, capito? Io capisco, se pensavo che avevo stato usando vettura. No, negativo, ancora no. sia la gara o no? Meglio così, sono contento. Oh, Iulia. Mannaggia Maria, mannaggia. No. Vuoi dire che mannaggia la Maria? Pensavo che vado, me ne faccio un altro rossino. Fatti la cosa, fatti. Gara, gara. E così, ah, giornata di merda, diavolo. Sfruttare la giornata, oiaia. E c'è anche freddo. C'è anche freddo. Lo so che c'è la mezzo. Vabbè, io non lo smetterò. Sei qua a casa, siamo ce n'è però. No, sì, dai, tutto sommato, è a casa, sta bene, dai. Adesso aspettiamo per la stagione per andare a pescare un po', se riusciamo a togliere qualche polpetto. Sì, se vuoi pescare la pasoletta nel cartello, a voglia che ne peschi i polpi. Adesso, adesso, aiuto. Sì, aiuto, quante ne vuoi c'è i polpi? Ah no, non sono quei polpi che dico io, però dai. Va bene, Meda. E già. Fai tempo del entrano le persone, grazie. Ben vicino, se mi sento bene. Sì, adesso sto scendo bene. scusate, sto mettendo a posto la flebo qua. Capisci? Uno, due, tre, quattro, uno, due. Ciao, le prossime della quattro pacco con tutto, vai.